commesso prendeva la sua tazza. Ad alta voce. Piero Baldini legge Grandi speranze di Charles Dickens. Il signor Pumblechook ed io facemmo colazione alle 8 nel retrobottega, mentre il commesso prendeva la sua tazza di tè con un pezzone di pane e burro seduto su un sacco di piselli nel locale che dava sulla strada. La compagnia del signor Pumblechook mi riusciva quanto mai sconfortante. Oltre ad aver fatto suo il principio di mia sorella, secondo la quale alla mia alimentazione andava impartito un carattere di mortificazione e penitenza, oltre ad avermi dato la maggior quantità possibile di crosta, unita alla minor quantità di burro, e ad avere messo una tale dose di acqua calda nel mio latte, che sarebbe stato più leale eliminarne addirittura il latte, la sua conversazione era esclusivamente aritmetica. Quando io gli augurai cortesemente il buongiorno, rispose in tono pomposo: «7 volte 9, ragazzo!» E come avrei potuto essere in grado di rispondere, colto all'improvviso in quel modo in un luogo che mi era estraneo e a stomaco vuoto? Avevo fame. Ma prima ancora che avessi ingoiato un solo boccone, egli iniziò una rapida serie di somme che durò tutto il tempo della colazione. +7, +4, +8... +6, +2, +10, e così via. E dopo aver sistemato ogni cifra, tutto al più riuscivo a dare un morso o a bere un sorso prima della seguente, mentre lui se ne stava seduto comodamente, rimpinzandosi, se mi si concede l'espressione, di bacon e panini caldi, con vera ingordigia e senza dover indovinare nulla. Per queste ragioni fui ben contento quando, arrivate le 10, ci mettemmo in cammino verso la signorina Havisham, per quanto non fossi affatto tranquillo sul come avrei dovuto comportarmi sotto il tetto di quella signora. In un quarto d'ora giungemmo alla sua casa, costruita in vecchi mattoni, lugubre, circondata da cancellate di ferro. Alcune delle finestre erano state murate, e di quelle rimanenti tutte le inferiori erano sbarrate da inferriate rugginose. C'era un cortile sul davanti, ed anche quello era cintato. Così, suonato il campanello, dovemmo aspettare che qualcuno ci venisse ad aprire. Mentre aspettavamo al cancello, sbirciai nell'interno. Anche in quel momento il signor Pumblechook mi interrogò. «E +14?» Ma finsi di non sentire. E vidi che di lato alla casa v'era una grande fabbrica di birra. Ma ora non vi si fabbricava un bel niente, e sembrava che da molti anni non vi si fosse fabbricato nulla. Una finestra si spalancò, e una voce limpida chiese: «Chi è?» E la mia guida rispose: «Pumblechook!» La voce replicò: «Benissimo!» La finestra si richiuse, e una ragazza attraversò il cortile con le chiavi in mano. «Questi?» disse il signor Pumblechook. «È Pip!» «Ah, dunque questo è Pip!» rispose la ragazza, che era molto carina e sembrava molto altezzosa. «Vieni dentro, Pip!» Il signor Pumblechook stava entrando pure lui, quando ella lo fermò, richiudendo il cancello. «Oh», gli disse, «volevate vedere la signorina Havisham?» «Se la signorina desidera vedermi», ribatté sconcertato Pumblechook. «Ah», continuò la ragazza, «ma lei non lo desidera». Lo disse in tono così definitivo e indiscutibile che Pumblechook, sebbene in uno stato d'animo di dignità offesa, non seppe protestare, ma mi lanciò un'occhiata severa, come se io gli avessi fatto qualcosa, e se ne andò, pronunciando a guisa di rimprovero le parole: «Ragazzo, che il tuo comportamento faccia onore a coloro che ti hanno allevato». Non ero del tutto sicuro che egli non avesse l'intenzione di tornare indietro per sottopormi attraverso il cancello la domanda: «È +16? Ma non lo fece. Entrammo nella casa da una porta laterale. Il grande portone sulla facciata era sbarrato all'esterno da due catene, e la prima cosa che notai fu che il corridoio era buio e la ragazza vi aveva lasciato una candela accesa. La prese. Percorremmo altri corridoi. Salimmo su per una scala, sempre al buio, alla luce della sola candela. Alla fine arrivammo alla porta di una stanza ed ella disse: «Entra!» Più per timidità che per cortesia risposi: «Dopo di voi, signorina!» Al che ella replicò: «Non essere ridicolo, ragazzo! Io non devo entrare!» E con aria sprezzante se ne andò. E ciò che era peggio, si portò via la candela. Tutto l'insieme era molto inquietante ed io mi sentivo un poco impaurito. Tuttavia, poiché l'unica cosa da fare era bussare alla porta, bussai. E dall'interno una voce disse di entrare. Entrai quindi e mi trovai in una camera abbastanza ampia, ben illuminata da candele di cera. Non vi penetrava il minimo barlume di sole. Era uno spogliatoio, a quanto supposi, osservandone la bobiglia, benché buona parte di essa fosse di forme ed usi a me ancora sconosciuti. Ma vi troneggiava un tavolino drappeggiato con uno specchio dorato, e da prima vista compresi che si trattava della toeletta di una gran dama. Se sarei riuscito a riconoscere questo oggetto così prontamente, senza una gran dama seduta dinanzi ad esso, non saprei dire. In una poltrona, un gomito appoggiato al piano della toeletta e il capo chino sulla mano, era seduta la più strana signora che io avessi mai vista e che mai mi sarà dato di vedere. Era vestita di stoffe assai lussuose, rasi e merletti e sete, e tutta di bianco. Le scarpe erano bianche, un lungo velo bianco le scendeva dalla capigliatura. Dei fiori nuziali adornavano i suoi capelli, ma questi erano bianchi. Alcuni gioielli le brillavano sul collo e sulle mani, ed altri rifulgevano lì sul tavolino. Altre vesti meno lussuose di quelle che indossava, e bauli a metà riempiti, erano sparsi ovunque. Non doveva aver finito di vestirsi, poiché calzava una sola scarpa e l'altra era sul tavolino accanto alla sua mano. Non fu in questi pochi istanti che distinsi tutte quelle cose. Pure il primo colpo d'occhio mi rivelò più di quanto si potrebbe supporre. Vidi che tutto quanto si trovava nella stanza, e che avrebbe dovuto essere bianco, lo era stato molto tempo fa, ed ora aveva perduto la lucentezza. Era spiedito e giallo. Vidi che la sposa in abito nuziale era appassita come l'abito, come i fiori, e non le rimaneva altro splendore che quello degli occhi incavati. Vidi che il vestito era stato tagliato per le forme piene di una giovane donna e che la figura sulla quale ora esso si afflosciava era tutta pelle ed ossa. Una volta mi avevano portato a vedere ad una fiera una orribile figura di cera che rappresentava non so quale personaggio importante sopra un catafalco, ed un'altra volta ero stato portato in una delle nostre vecchie chiese nella palude a vedere uno scheletro rivestito degli avanzi di un ricco paludamento, tratto fuori da una tomba sotto il pavimento della chiesa. Ora, statua di cera e scheletro sembravano avere due occhi neri che si muovevano e mi guardavano. Se avessi potuto, mi sarei messo a gridare. «Chi è?» chiese la signora seduta al tavolino. «Pip, signora!» «Pip?» «Il ragazzo del signor Pumblechook, signora, venuto a giocare!» «Avvicinati che ti guardi! Vieni qui!» Fu quando mi ritrovai ritto dinanzi a lei, evitando il suo sguardo, che notai ogni particolare delle cose che la circondavano, e mi accorsi che l'orologio era fermo sulle 9:20, e una pendola nella stanza era pure ferma sulle 9:20. «Guardami!» disse la signorina Havisham. «Non hai paura di una donna che non ha mai visto il sole da quando tu sei nato?» Mi spiace confessare che non ebbi paura di dirle l'enorme bugia contenuta nella risposta. «No. Sai cosa tocco qui?» domandò ponendosi le mani una sopra l'altra sul lato sinistro del petto. «Sì, signora. Che cosa tocco?» «Il vostro cuore.» «Spezzato!» pronunciò questa parola con uno sguardo ardente e in tono enfatico e con uno strano sorriso che sembrava di vanto. Tenne lì per un po' con le mani e poi lentamente le tolse, come se fossero pesanti. Sono stanca, disse la signorina Havisham. Ho bisogno di distrazione e non ho più voglia di avere a che fare con uomini e donne. Gioca! Anche il lettore più polemico dovrà riconoscere che ella non avrebbe potuto chiedere a un povero ragazzo una cosa più difficile in quelle circostanze. Talvolta ho dei capricci di malata, ella continuò. Ed ora ho la fantasia di veder giocare. Su, su! Con un moto impaziente delle dita della mano. Gioca! Gioca! Gioca! Per un istante, con dinanzi agli occhi la paurosa visione di mia sorella che mi allenava, ebbi l'idea disperata di mettermi a correre intorno alla stanza, fingendo di essere il Calesse del signor Pumblechook. Ma mi sentii così inadeguato a un simile esercizio che rinunciai e rimasi a guardare la signorina in un atteggiamento che probabilmente la interpretò come testardo, poiché mi disse dopo che ci fummo guardati per un po': «Sei di carattere cattivo e ostinato?» «No, signora, mi rincresce molto per voi e mi rincresce molto di non poter giocare proprio adesso. Se vi lamentate di me, passerò dei guai con mia sorella. Quindi, se potessi, lo farei. Ma tutto è così nuovo qui, è così strano, è così bello, è così malinconico.» Mi interruppi temendo di dire troppo o di averlo già detto. E di nuovo ci guardammo. Prima di riprendere a parlare, ella distolse gli occhi da me. Guardò la veste che indossava, la toeletta, e finalmente si guardò nello specchio. «Così nuovo per lui?» mormorò. «Così vecchio per me. Così strano per lui, così familiare per me. Così malinconico per tutti e due. Chiama Estella!» Poiché stava ancora guardando la propria immagine nello specchio, credetti che parlasse fra sé e non mi mossi. «Chiama Estella!» ripeté gettandomi un'occhiata. «Questo lo puoi fare. Chiama Estella! Alla porta!» Starmene al buio in un corridoio misterioso di una casa sconosciuta, urlando «Estella!» ad una fanciulla sprezzante che non si fa vedere né risponde, e con la sensazione di prendermi una terribile licenza nell'urlare a quel modo il suo nome, era altrettanto penoso che giocare su comando. Ma alla fine ella rispose, e lungo il corridoio buio la sua candela apparve, come una stella. La signorina Havisham le fece cenno di avvicinarsi, prese un gioiello dal tavolino e ne provò l'effetto sul suo bel seno e sopra i suoi bei capelli bruni. «Sarà tuo un giorno, mia cara, e ne farai buon uso. Voglio vederti giocare a carte con questo ragazzo.» «Con questo ragazzo? Ma sei un contadinotto ordinario!» Mi parve di cogliere la risposta della signorina Havisham, ma sembrava tanto inverosimile. «Ebbene, gli puoi spezzare il cuore!» «Che gioco sai?» mi domandò Estella con il massimo disprezzo. «Quello di mettere in camicia.» «Mettilo in camicia!» disse la signorina d'Estella. E così ci mettemmo a giocare. Fu allora che incominciai a capire che ogni cosa nella stanza si era fermata, al pari dell'orologio e della pendola, molto tempo prima. Notai che la signorina Havisham posava il gioiello esattamente nel punto in cui l'aveva preso. Così la rimase seduta, simile a un cadavere, mentre giocavamo a carte, e tutti i merletti e le guarnizioni della veste nuziale sembravano fatti di ruvida carta. A quel tempo non sapevo nulla delle scoperte che avvengono talvolta di corpi sepolti in tempi antichi, i quali si riducono in polvere nel momento stesso in cui riemergono alla superficie. Ma da allora ho spesso pensato che il suo aspetto doveva dare l'impressione che la luce del sole l'avrebbe ridotta in polvere. «Chiama i fanti Jack, questo ragazzo», disse Estella sprezzante, prima che avessimo finito la prima partita. «E che mani volgari, che scarponi pesanti!» Prima di allora non avevo mai pensato a vergognarmi delle mie mani, ma da allora presi a considerarle come qualcosa di brutto. Il suo disprezzo per me era così forte da diventare contagioso, e lo feci mio. Ella vinse la partita, e feci io le carte. Sbagliai nel darle, come era ben naturale, perché la sapevo lì in attesa che io mi sbagliassi, ed ella mi accusò di essere un contadinotto, stupido e goffo. «Non dici niente di lei?» osservò la signorina Havisham, che stava a guardare. «Lei dice molte cose cattive sul tuo conto, ma tu non dici niente di lei. Che ne pensi?» «Non voglio dirlo», balbettai. «Dimmelo nell'orecchio», disse la signorina Havisham, chinandosi. «Mi pare che sia molto orgogliosa», sussurrai. «Nient'altro?» «Mi pare che sia molto graziosa». «Nient'altro?» «Mi pare che sia molto insolente». Mi stava lanciando uno sguardo carico di evidente avversione. «Nient'altro?» «Penso che vorrei tornare a casa». «E non vederla più, per quanto sia così graziosa?» «Non sono sicuro che non mi piacerebbe rivederla, ma adesso vorrei tornare a casa». «Ci tornerai presto», disse la signorina Havisham ad alta voce. «Finisci la partita». Finii la partita con Estella, che mi portò via tutte le carte, e poi le gettò sul tavolo come se le disprezzasse per averle vinte a me. «Quando tornerai di nuovo?» disse la signorina Havisham. «Lascia che ci pensi». Stavo per lamentarle che quel giorno era un mercoledì, quando ella mi fermò con il gesto impaziente delle dita della mano destra, che aveva già fatto prima. Va, non so nulla dei giorni della settimana, non so nulla della settimana, dell'anno. Ritorno fra 6 giorni. Hai capito?» «Sì, signora». «Estella, accompagnalo giù. Dagli qualcosa da mangiare, che giri dove vuole e guardi dappertutto mentre mangia. Ciao, Pip». Seguii la candela nello scendere come l'avevo seguita nel salire, ed ella la pose nel posto in cui l'aveva trovata, finché non aprì la porta d'ingresso laterale. Mi ero immaginato scioccamente che fosse già sera. L'apparire della luce del giorno finì di confondermi e mi diede l'impressione di essere rimasto in quella strana stanza a lume di candela per molte ore. «Devi aspettare qui, ragazzo. Hai capito?» ingiunse Estella. E scomparve, richiudendo la porta. Approfittai dell'occasione di trovarmi solo nel cortile per guardare le mie mani rozze e i miei scarponi pesanti. La mia opinione su questi accessori non fu favorevole. Non mi avevano mai preoccupato prima, ma mi preoccupavano ora quali volgari appendici. Estella tornò, con un po' di pane e carne e un boccaletto di birra. Posò il boccaletto per terra sulle pietre del cortile. Vi consegnò pane e carne senza guardarmi, con lo stesso disprezzo insolente che si può usare verso un cane in castigo. Ne fui così umiliato, ferito, irritato, offeso, adirato, addolorato. Non riesco a trovare il nome esatto per tale ferita, Dio solo lo sa, che le lacrime mi salirono agli occhi. Non appena le intravide, la ragazza mi guardò con una gioia evidente per esserne stata la causa. Ciò che mi diede la forza di ricacciarle e di guardarla in faccia. Ella crollò allora il capo con fare dispettoso, ma con l'impressione, almeno così mi parve, di essere stata troppo sicura di avermi ferito, e mi lasciò. Ma quando se ne fu andata, cercai davvero un enorme punto su cui incerlare il mio viso, e mi nascosi dietro uno dei cancelli nel vicolo della fabbrica di birra. Lì appoggiai la manica al muro, vi posai sopra il capo e piansi. E piangendo prendevo a calci il muro e mi strappavo i capelli. Ed era tanto forte la mia amarezza e tanto acuta quella mia sofferenza senza nome da rendere necessaria una reazione. Al di là del lato estremo della fabbrica vi era un giardino lussureggiante, circondato da un vecchio muro, non così alto, tuttavia, da impedirmi di arrampicarmi fino alla sommità e restare aggrappato lassù il tempo necessario per gettare uno sguardo al di là e vedere che il giardino lussureggiante apparteneva alla casa ed era ricoperto da un intrico di erbacce, benché un solco nei vialetti verdi e gialli sembrava indicare che talvolta qualcuno vi camminava, e scorgere Estella, la quale si stava allontanando proprio in quell'istante. Ma la fanciulla sembrava essere dappertutto, perché quando io cedetti alla tentazione offerta da certi barili e presi a camminare su di essi, vidi lei camminare su di essi all'estremità del deposito. Mi voltava le spalle. Si teneva con tutte e due le mani la sua bella capigliatura sciolta, senza mai guardarsi attorno, e subito scomparve. Lo stesso avvenne nella distilleria, e con questo intendo parlare del locale ampio ed alto dove solevano fare la birra e dove si trovavano ancora i macchinari. Quando vi entrai per la prima volta e oppresso dalla tetraggine del luogo mi fermai accanto alla porta guardandomi attorno, la vidi passare tra i focolai estinti, salire una leggera scala di ferro, poi sparire in una galleria superiore, come se fosse volata in cielo. Fu in questo luogo ed in questo momento che la fantasia mi giocò uno strano scherzo. Lo giudicai strano allora e lo trovai ancora più strano molto tempo dopo. Girai gli occhi, un poco abbagliati dalla gelida luce invernale, verso un grosso trave di legno in un angolo dell'edificio vicino a me, sul lato destro, e vidi una figura impiccata, una figura tutta vestita di un bianco giallastro, con una sola scarpa ai piedi. Penzolava tanto da mostrare la guarnizione sciupata della veste che pareva di carta rigida. E il volto era quello della signorina Havisham, mentre tutta la persona pareva protendersi come per chiamarmi. Nel terrore di quell'apparizione e nella certezza che essa non era lì un momento prima, io dapprima me ne allontanai di corsa, poi balzai verso di essa. E il mio terrore giunse al colmo quando non trovai più nessuna figura. Ci volle tutta la gelida luce del cielo sereno, la vista dei passanti al di là della cancellata del cortile, l'influsso vivificante del pane, della carne e della birra che ancora mi restavano, per farmi tornare in me. Anche con questi aiuti non avrei potuto riprendere il controllo di me stesso così presto come feci, se non avessi visto Estella avvicinarsi con le chiavi per farmi uscire. Pensai che ella avrebbe avuto motivi fondati di guardarmi con disprezzo se mi avesse visto spaventato, e non dovevo offrirle nessun fondato motivo. Mi lanciò un'occhiata trionfante nel passarmi accanto, come se godesse nel vedermi delle mani così volgari e delle scarpe così rozze. Aprì il cancello e rimase lì a tenerlo aperto. Io stavo per passare senza guardarla, quando ella mi toccò con un gesto dispettoso. «Perché non piangi?» «Perché non ne ho voglia.» «Ne hai voglia!» gridò. «Hai continuato a piangere finché non ci vedevi più. Ed anche adesso sei lì, lì per piangere.» Rise sprezzante, mi spinse fuori e richiuse il cancello dietro di me. Andai dritto dal signor Pumblechook e fui immensamente sollevato constatando che non era in casa. Così, dopo aver detto al commesso in quale giorno avrei dovuto ripresentarmi dalla signorina Havisham, mi accinsi a percorrere le 4 miglia fino alla nostra fucina, ripensando mentre camminavo a tutto quello che avevo visto e giudicandomi null'altro che un contadinotto ordinario, dalle mani volgari e dagli scarponi pesanti, dalla spregevole abitudine di chiamare i fanti Jack, giudicandomi assai più ignorante di quanto non mi fossi ritenuto la sera prima, e in generale avviato su una cattiva strada.